Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Altri due, metti, superate quel cazzo di ostacolo, muoversi, altri due, metti, su, coraggio, superatelo. Soldato Joker, tu sei un killer? Signor, sì, signore. Fammi sentire il tuo grido di guerra. Ah! Altri due, forza, forza. Certo, Pardo vestito come Matthew Modine, The Joker in Full Metal Jacket, non ce lo vedo. E invece mi sottovaluti, perché il mio abbigliamento naturale, direi la mia, il mio habitat. Lungi da noi l'idea di... lungi da noi l'idea di licenziare Giorgio De Luca, autore di questo programma, e Roberto Scarpa. Tra l'altro in confusione, manda messaggi, non sa di averli mandati, pensa di parlare con delle donne, parla con me, cioè c'è grande confusione. De Luca, confusione De Luca. Però Full Metal Jacket perché? Perché la mia sensazione è questa, che la marcia di avvicinamento a questa partita, lungi da noi ovviamente l'idea di colorare questa partita con colori di guerra. Assolutamente. We are joking. Che vuol dire stava scherzando, traduco. Stava scherzando. Stavo pazziando. A mezzanotte sarebbe stato più affascinante, ma non vogliono dar retta De Laurentiis, va benissimo la prima serata. Basta però vederli giocare, no? Napoli e Roma, Roma e Napoli. Magari con Nottav fuori dalla porta, ma vabbè, questi sono altri discorsi. No, ho scelto Full Metal Jacket perché la marcia di avvicinamento a questa partitissima è stata, Pierluigi lo sai benissimo, una corsa a ostacoli, un percorso di battaglia mediatica naturalmente tra stadi chiusi e ora riaperti, come sappiamo, perché gabbato Lusanto. Colpi di tweet, bot di Facebook, l'ultimo dei quali relativo alla capitale dell'Indonesia. Mio parere, non mi interessano queste cose, non voglio aprire il discorso a meno che non vogliate farlo voi, ma magari evitiamo. 8-0-0-24. Sì, io sul discorso Balotelli aderirei all'appello di discorso Balotelli, cioè... aderirei all'appello che è stato, beh, è stato molto chiaro, dai, ha detto tweet, mi pare l'ultimo, no? Tweet ha detto praticamente non basta parlare, lasciatemi in pace. Quindi a questo punto, di fronte a una presa di posizione così chiara, fino a prova contraria, mi sembra giusto assolutamente lasciare la massima libertà. Il punto è sempre lo stesso, che comunque alla fine i tweet sono 140 caratteri, non 150 come ho detto mezz'ora fa, 140 caratteri che poi rimangono così impressi che ognuno può interpretare, sì, come gli pare. La storia è piena, la storia sportiva di questi anni è piena di clamorose gaffe. Quella di Rune è stata eccezionale, quando disse che Pepe era un idiota guardandolo fare un intervento assassino durante un Real Madrid-Barcellona. E poi, sì, e poi Oglia, di scusarti, recente, no? Anche una polemica tra Real e Barcellona via Twitter. Ma assolutamente. Ci sono state anche fra personaggi televisivi l'anno scorso, ci sono state polemiche feroci via Twitter. Cioè, bisogna capire che è uno strumento bello, divertente. Io sono integralista twitteriano, è bellissimo, è utile per esprimere un punto di vista. Però poi, ecco, è chiaro che se lo esprimi, se sei un personaggio così importante, è ovvio che il dibattito si apre. Per cui io aderisco alla richiesta di Mario, perché credo che in questo momento, se lui ha questa esigenza, è giusto. Si dice zitti. Dice che vuole essere lasciato in pace, che vuole essere giudicato per quello che fa in campo, che è la cosa più normale. Ha pienamente ragione. Però ecco, detto questo, poi se domani fa un altro tweet che si presta, ma lui come qualsiasi altra persona, solo che lui chiaramente fa più notizia, e facendo più notizia se ne parla di più, ma insomma. Certo, io lascerei stare il computer o il telefono anche per quanto riguarda il presidente della Juventus. La battuta su Giacarta è carina volendo, però è come buttare il solito fiammifero nel bidone della benzina. Vabbè, comunque Twitter and Facebook fine, per arrivare a dire che io alla fine di queste due settimane sono stremato, e quindi idealmente sulla musica di Full Metal Jacket. Ma qui bisognerebbe abolire le pause del campionato, perché capito, perché poi il dramma è quello. Perché queste polemiche qui trovano ancora maggiore spazio, perché non si giocano partite, non si sono giocate, con tutto rispetto per Armenia e Danimarca, ne sappiamo qualcosa, non siamo teste di serie e ci rode. Siamo teste di, non so, poi parliamo di che teste siamo. Io comunque alla fine di questo periodo, sai cosa faccio sulla musica di Full Metal Jacket? Idealmente, guarda, metto giù lo zaino e mi siedo sulla riva del Mekong. Sì. Sono stufo. Comincio a aver paura più. Di te, gente. Su queste non ce la faccio più perché appunto ci siamo destreggiati in questa palude per 2 settimane. Domani finalmente si gioca. Poi parleremo anche di teste di serie e teste ricamate, perché ci vuole una bella fantasia, Pierluigi, a determinare in quel modo le teste di serie di un mondiale. Per la prima volta. Ridicolo, mondiale, ma attenzione, ridicolo, ma questa cosa non ci assolve. Cioè, secondo me il criterio delle teste di serie è un criterio ridicolo, perché con tutto rispetto per la Svizzera, che è una buona squadra, e il Belgio, che è un'ottima squadra, ci dovrebbero essere degli altri requisiti. Non può essere soltanto il percorso delle qualificazioni che pesa, dovrebbe esserci un rispetto per le competizioni più importanti. No? E quindi, insomma, se l'Italia nel 2006 ha vinto il mondiale, se l'Italia nel 2012 è stata in finale all'europeo, se comunque si è sempre qualificata in carrozza, mi pare, recentemente a queste competizioni, forse. Però detto questo, questo non assolve, perché comunque noi potevamo tranquillamente diventare teste di serie e non abbiamo. Le regole c'erano, non le abbiamo osservate, o quantomeno non abbiamo avuto un comportamento consono alle regole. È venuto fuori una vecchia storia molto italiana delle partite, sì, che sembrano amichevoli, nelle quali noi ci svegliamo, giochiamo col pigiama, no? Così, con un po' di con le ciabatte in grande serenità. È la grande specificità degli italiani, sempre e comunque, no? Essere straordinari nei momenti in cui c'è da fare la grande impresa, in cui tutto sembra disperato e perso, e poi perdersi nella vita quotidiana quando c'è un po' meno adrenalina. Detto questo, non so se è la storia della volpe e dell'uva, ma io sto con Prandelli: meglio non essere teste di serie e partire come insommergibili, magari con una corazzata sopra la testa, poi vediamo. Dipende anche che girone viene fuori, però. Certamente. Okay. 800 24 00 24, numero verde, traffico. Ma che fai, palla di lardo? Tutti convocati. Bello de casa, sei diventato tutto rosso, con i capelli biondi sei giallo e rosso vero. Bello, altri tre anni di contratto. La cosa più bella della stagione questa, veramente la perla della stagione, dell'anno, compresi i gol, compreso tutto quanto, la cosa tra virgolette calcistica più bella della stagione. Io ho temuto molto per la salute di Carlo Zampa. Ciao Carlo. Buon pomeriggio, come va? Bene, ciao Carlito, tutto a posto? Grande Piero, tutto bene. So che bene. Sei stato in montagna, ti sei ritemprato. Sì, sono ancora qui, sto rientrando adesso a Roma. Che hai fatto? Il richiamo di preparazione? Esatto, ritiro spirituale. Quante caramelle te mangi a ogni telecronaca? Ma guarda, devo dire non tante. Riesco poi a recuperare bene anche la voce a fine gara. Sai che c'è, come i giocatori che quando vincono prendono sempre più entusiasmo. E pure quando la Roma vince e quando segnano i giocatori della Roma, comunque mi entusiasmo sempre di più e mi ricarico immediatamente. Vi faccio sentire un'altra cosa. Sentiamo. Ah, è una giocata del contrapiedi che Caffarelli mi ha visto molto bene. Io he calciato un cross indietro e Bertoni non ha tenuto ningún problema en fare la rete. O primo amore. Nessuno di noi è napoletano, ma insomma, o primo amore. C'è già Boris Sollazzo, noto critico cinematografico e nostro amico. Beh, mi volete veramente male, mi volete? Perché? Sì, ti odiamo dal profondo. Voi immaginate la mia situazione con Maradona in Italia e domani Roma-Napoli. Ma te lo volevo dire io. Da cittadino romano e tifoso del Napoli. Cosa c'è di più cinematografico di questo? Meraviglioso, assolutamente meraviglioso. Senti, Boris, ieri Enrico Mentana, da interista ovviamente, ha detto a questi microfoni che Ronaldo era come Maradona. No, ha detto che era meglio di Maradona. Ha detto che era meglio di Maradona. Ha detto che era meglio. Lo dico per la cronaca. Per la cronaca. Non è la prima volta che mi trovo in disaccordo con Chicco Mentana, non credo che a lui interessi molto, però insomma mi sembra una delle castronerie più grosse che ha detto, però è anche vero che il direttore non è noto per la sua competenza sportiva ma per altre competenze, quindi è giusto insomma che ognuno abbia le sue idee. Credo che anche Carlo sia d'accordo con me, posso dire che io mi sento onoratissimo di essere in diretta con Zampa, perché ancora ricordo la sua reazione al gol di Del Vecchio annullato in un derby, te posso in ammazzare che mai annullato. Che mai annullato, sì. È sì, una sì, cosa proprio poesia purissima, cioè veramente un maestro. Carlo, vuoi rispondere? No, no, io dico che sono perfettamente d'accordo sulla questione di Maradona, d'accordo con Boris, io pure, per me Maradona è assolutamente superiore, Maradona è un altro livello, allora, veramente un altro livello. E spero tanto di vederlo domani, io spero che poi alla fine ce la faccia a venire allo Stadio Olimpico, so che la Roma lo ha invitato, ha fatto molto bene, sarebbe stato bellissimo vedere Maradona e Falcao. Falcao che ha fatto i 60 anni, però Falcao non può venire, però insomma, già sarebbe molto bello secondo me vederlo. Scusate, Maradona, voi due che siete due pischelli, però insomma avete nostalgia degli anni 80, allora lo diciamo ai piccoli, sì. Negli anni 80 Roma-Napoli era un gemellaggio come oggi Napoli-Genova più o meno, c'era una partita dove si andava tutti insieme in autostrada, abbracciati, eccetera. Adesso non tanto. Adesso un po' meno. Io ho una totale nostalgia, caro Pierluigi, ma in assoluto, perché vedere anche domani lo stadio non pieno è per me triste, perché Roma-Napoli per me era uno spettacolo di passione e di tifo che soltanto le tifoserie di Roma e Napoli possono dare, però purtroppo ormai io non entro in questi meccanismi perché poi non riesco a capire e conoscere poi bene queste dinamiche, però lo rimpiango veramente, perché era veramente una festa di colori, di passione, era qualcosa di unico. E poi vedere adesso Roma e Napoli che sono una prima, l'altra seconda in classifica, e quindi poter lottare anche fino alla fine per aggiudicarsi il campionato, piuttosto che vedere sempre le solite squadre del nord, sì, che primeggiano, insomma non è bello, ma è bellissimo. Mi piacerebbe tanto ritornare a quei tempi, ma non so se sarà fattibile. Tanto il rimpianto oggi, da parte mia, c'è. Oggi sono le due migliori squadre d'Italia, non temo smentita. La Juve per me la Juve è favorita. No, è favorita a gioco lungo, ma oggi come espressione di gioco, come picchi di gioco, come no? Come picchi di gioco, io ho visto giocare meglio. Ci sono tre squadre che sono diverse, ma sono fino a questo momento. Tu stai parlando di valori assoluti, però. Io sto parlando di spot in questo momento. Se tu guardi Juve-Lazio 4-1, è una partita pazzesca. Quello è un picco. Questo campionato, non è che è successo 10 anni fa. No, secondo me, no. Allora, io voglio dire una cosa su Maradona, però. Certo. Perché siamo tutti d'accordo, bravo. Sapete che chi ha la pazienza e il coraggio di ascoltarmi da qualche tempo sa benissimo che per me Maradona è poi il cielo. Quindi no, niente di più. Però il Ronaldo dei primi 2 anni apparteneva a quella categoria, quindi non sto dicendo che era più forte, però sto dicendo che era Maradona, il Ronaldo dei primi 2 anni. Sollazzo! No, ma lungi da me dire che Ronaldo non fosse forte e Ronaldo era poesia nel momento in cui era più in forma, mi sembra che giochino comunque in due categorie completamente diverse. Detto questo, Ronaldo è stato sicuramente, diciamo, il Maradona dei suoi tempi. C'era questa abitudine bizzarra di definire Maradona dando poi un aggettivo regionale, no? Non so se vi ricordate il Maradona dei Carpazzi, il Maradona del Bosforo, la Emre divenne il Maradona del Bosforo. Allora si può dire il Maradona degli anni 90 è stato sicuramente Ronaldo, però insomma veramente Diego, adesso non lo dico da napoletano, lo dico da sportivo, è qualcosa di poetico. Voi non dovete vedere i gol di Maradona, voi dovete vedere un po' come si fa per Totti. Totti a me a Milano non mi ha sconvolto per la doppietta, quel tipo di doppietta l'ho vista fare tante volte a Totti, a me mi ha sconvolto per quel disimpegno no look per Strootman, che è da floreta del calcio, cioè è qualcosa di sconvolgente, di incredibile. Sul gemellaggio mi farebbe piacere raccontare una cosa. Io avevo 9 anni e stavo a Trastevere, stavamo festeggiando lo scudetto del Napoli e mi imbatto in questo manifesto dove il Roma Club Trastevere salutava il Napoli campione d'Italia, era proprio l'ultimo anno del gemellaggio, e io andai lì a staccarlo, un po' vandalo perché me lo volevo attaccare in camera, uscì un tifoso romanista, io mi sentivo in colpa perché dico oddio, gli sto vandalizzando il manifesto, lui disse no, lascialo, entrò nel club e mi portò il manifesto tutto bello piegato, aspirato. Quindi questo era il clima che si respirava allora, e per me è davvero un dolore che non ci sia più quell'atmosfera, perché a mio parere Roma e Napoli sono proprio due tifoserie sorelle, nel senso che hanno lo stesso tipo di passione, la stessa voglia di tenere alto per 90 minuti l'amore, il cuore, e poi anche la stessa cattiveria nel trattare i propri beniamini durante il resto della settimana. Quindi... Allora, per il momento però, caro Zampa, Napoli in vantaggio 2-0 sulla Roma, perché i primi due ascoltatori di oggi, Enzo non ti spaventare, i primi due ascoltatori di oggi chiamano da Napoli. Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Enzo, grazie per la convocazione. Volevo riallacciarmi a questo discorso che avete fatto adesso. Io ho vissuto quegli anni del gemellaggio e continuo a dire che due tifoserie come quelle di Napoli e Roma sono molto difficili da trovare, e lo dico spesso anche con ironia ai miei amici juventini o interisti, perché noi, oltre a tifare per la squadra, noi siamo chiaramente legati alla città, per noi c'è una simbiosi tra città e squadra, di conseguenza viviamo la partita in maniera completamente, a mio parere, diversa da altre tifoserie, e mi dispiace tantissimo, così come dispiace alle tantissime persone di Roma, che questo gemellaggio si sia concluso in quegli anni. Allora rifacciamolo, proviamo a rifarlo. Noi l'abbiamo lanciato chiaramente più volte. Noi lo lanciamo con tutta la nostra intensa. Beh, se lo vogliono fare, Ciro, lo vuole fare anche lei? Buongiorno a voi. Ciao. Vi ringrazio per la convocazione. Finalmente io, quando sento voi, vi devo fare la pausa perché sono un autotrasportatore e vado all'estero. Ieri stavo ai confini dell'Austria. Grazie. Oggi sto quasi a Napoli. E vi ringrazio veramente perché mi fate tanta compagnia. Grazie a te. Allora, io vorrei dire una cosa. Siccome posso avere due cose. Una è Benetice, si incontrano le due squadre più forti del campionato. E poi il signor Mezzana, secondo me, ieri stava al sole, deve stare un po' a fresco. Vabbè, Ciro. Oh, ma Ronaldo era forte. Però, ma secondo me, non ve lo ricordate. Il paragone fra epoche è una cosa. È una cosa complicatissima. Complicatissima. No, è una cosa... Però c'è una cosa di Ronaldo e Maradona, secondo me, in comune, che è il fatto che tutti e due, l'abbiamo visto poi nella parte avanzata del post carriera di tutti e due, hanno dimostrato di essere anche uomini con delle loro fragilità, e forse sono stati amati molto anche per questo, perché in realtà non erano soltanto i fuoriclasse perfetti alla Cristiano Ronaldo, così come ci sembra adesso, no? Bello, stupendo, senza un filo di grasso mai, l'atleta, il superuomo quasi. Erano comunque due uomini che hanno avuto tante debolezze nella loro vita, anche durante la loro stessa carriera. Ricordiamoci quello che è successo a Ronaldo di misterioso prima della finale fra Brasile e Francia, i problemi che ha avuto, anche i comportamenti sbagliati che ha avuto Maradona. Grande Ronaldo è finito lì, cioè quello che era veramente paragonabile a Maradona è finito su quella scaletta dell'aereo, perché poi è stato comunque un giocatore diverso con tutto quello che ne è seguito. Allora, smettendola di rivangare vecchi tempi, perché sembriamo delle zie, voglio guardare la partita di domani, e allora sfido la scaramanzia di Carlo Zampa e Boris Sollazzo con questa domanda. Zampa, Roma favorita perché? Beh, perché è prima in classifica, allora. Bisogna dire che può essere favorita perché è prima in classifica, perché ha vinto 7 partite su 7, perché comunque gioca in casa, e la Roma deve cercare di sfruttare al massimo questa opportunità. Poi chiaramente si vedrà quello che succederà in campo, però da questo punto di vista la Roma ha qualcosa in più già rispetto al Napoli, che ha soltanto un pareggio rispetto alla Roma, che è quello in casa con il Sassuolo. Quindi sono due punti in più, possono essere pochi, possono essere anche tanti. La Roma, se dovesse vincere, allungherebbe comunque sul Napoli, che è un'assoluta pretendente per il titolo finale. Sollazzo, Napoli favorito perché? Io mi ero preparato su Roma favorita perché pensavo che fosse anche a me. Chi è più scaramantico fra i due? Ma io sicuramente temo. Io pure, sì, ma lo sono anche io. Allora, Boris. Sono testimone oculare. Guarda, allora, onestamente lo dico da sportivo, non credo che il Napoli sia favorito, nonostante Rudy Garcia l'abbia detto. Però, volendo fare questo gioco, forse il Napoli può essere favorito, perché nonostante le assenze di Zuniga, nonostante Higuain Albiol a mezzo servizio, c'è un mago riconosciuto lì in panchina. Non che Rudy Garcia non sia straordinario, perché insomma le magie che ha fatto dimostrano che è un grande allenatore, però forse il Napoli potrebbe avere il ruolo di favorita proprio perché è sfavorita. In qualche modo questo filotto di vittorie costringe la Roma a provarci maggiore pressione. Ci fermiamo, grazie Carlo Zampa, Boris Sollazzo. Grazie a voi. Io c'avevo l'aneddoto sulla scaramanzia di Zampa, era bellissimo. Racconti dopo la voce. Lo racconto dopo. Collegati, non so a Ortisei che frequenza abbiamo, però collegati. Borsa. tutti convocati. Benvenuti in sospeso con l'aneddoto di Pardo sulle scaramanzie ma di Carlo Zampa. Ma no, è Zampa. Che dopo Inter-Roma sono finito casualmente nello stesso ascensore di Zampa e sì. C'era un signore, che non conosco personalmente, che ha riconosciuto Zampa e gli ha detto oh, quest'anno non c'è per nessuno. E lui ha fatto una faccia, come dire, grazie, però nel frattempo notavo uno strano movimento. E insomma, sono quelle scaramanzie così semplici. Invece, passando ad argomenti nettamente più seri. Cioè, io una volta sono finito in ascensore casualmente con salendo a San Siro per una Milan Juventus. Sono salito in ascensore casualmente con Moggio Giraudo, ma questa te la racconto un'altra volta. Quando vuoi, siamo qui tutti i giorni, ve lo ricordiamo, tutti convocati, 14.05, no, ci arriva un messaggio importante, ricordiamo che oggi sono i funerali di Martinelli, grande sì. Presidente che ha creduto nell'Hellas nei momenti più difficili, da Firenze dicono che anche lì c'è quell'identificazione di cui parlava il nostro ascoltatore, è abbastanza vero direi, no? Identificazione quasi assoluta, perfetta fra squadra e città, tifosi che vivono ogni minuto della loro vita pensando alla squadra, poi ci chiedono perché nessuno parla di Letizia, ma sfondate la porta aperta, Letizia è un mito, soltanto che se ci mettiamo a parlare di Letizia gli ascolti crollano, lo conosciamo in otto, però Letizia è straordinaria. Stefano Catania, buongiorno. Buongiorno, io chiamavo perché volevo intervenire sulla questione Maradona-Ronaldo. Sì, prego. Io premetto che sono un tifoso juventino, sì. Però non si può paragonare Maradona-Ronaldo. Maradona era super. Io ricordo un gol che fece a Tacconi su un calcio a due in area. Sì, sì, l'abbiamo visto 8 milioni di volte, sì, quel gol. Forse anche 9. Sì, no, ma meraviglioso. Ronaldo era più fisico. Vabbè, guardi, però. Maradona Stefano non si allenava tutta la settimana, Non faceva il ritiro, arrivava e vinceva. Se no, si immagini cosa poteva diventare. No, ma io, guardi, lei sta parlando con uno che andava a vedere Maradona perché era Maradona in tutti gli stadi possibili. In tutte le situazioni possibili, quindi ripeto, per me Maradona è poi il cielo, però quei 2 anni di Ronaldo, poi è chiaro che Ronaldo è durato 2 anni di fatto, poi da quel mondiale, dai problemi fisici che ha avuto è stato un altro giocatore, assolutamente, magari anche fortissimo, però il paragone fra epoche diverse è qualcosa di, certo, complicatissimo, ma poi soprattutto se uno ha avuto una carriera, l'altro di fatto ha avuto, sì, uno scampolo di carriera, in quello scampolo di carriera per me Ronaldo giocava e Maradona ha fatto vincere il mondiale a una squadra infinitamente più debole del sì. Brasile del 2002, quindi non ci sono proprio poi, dubbi poi qui posso aprire, non mi stuzzicare perché sennò poi qui apro la storia di Maradona e Messi, Maradona no, Messi, Maradona e Messi un altro, pensavo avessimo superato questa fase, no? Invece no, ancora non so, lei, a me brucia dentro, cosa ti brucia dentro? Ma mi brucia il dentro paragone, Maradona, che fanno il paragone? Ma sì. Non paragoniamo Ronaldo a Maradona e discutiamone. Messi e Maradona li paragoneremo quando Messi vincerà un mondiale con la maglia albiceleste. Un genta scatenato, esagerato. Dove andiamo? Udine? Dove andiamo? Massimo. A Milano? Udine, no, Udine, Massimo. Buongiorno Carlo, buongiorno Pierluigi, grazie per la riconvocazione, ci siamo sentiti ieri. Stretto giro di posto. Cioè, sono il massimo di Udine di ieri, esatto. Sì, allora, sì. Non vorrei rompere questo idillio Roma-Napoli, premetto che anch'io sono juventino, ma per me Maradona è l'assoluto, poi possiamo parlare di quello che vogliamo. Ma sì, tornavo sul tema di ieri della Nazionale. Ieri ho ascoltato il commento di Carlo, dicevo che la partita della Nazionale vista l'altra sera dopo Danimarca, quella con l'Armenia, è stata irritante, no? Sì. Qualificazioni in carrozza, abbiamo ripetuto queste cose, possiamo dire, questo, oggi se possibile vorrei sentire il commento di Pierluigi, possiamo dire che per 0,34 punti Cesare perse la cappa? Ma insomma, abbiamo la partita con l'Armenia, adesso al di là di tutto, è una partita intollerabile, cioè è intollerabile quello che abbiamo fatto, lo dico sinceramente, è vero che potevamo vincerla perché Balotelli la stava cambiando alla fine e siamo andati vicinissimi al 3-2, ma essersi messi in quelle condizioni lì è un errore, cioè siamo ricaduti in una vecchia tradizione italiana che se non ci sono stimoli di adrenalina a litri o forse a tonnellate siamo in difficoltà, quindi è assolutamente imperdonabile, io sono d'accordo, insomma, al di là del fatto che comunque questa è una squadra che non ha mai perso nelle qualificazioni al mondiale, all'europeo, il giudizio su Prandelli non può che essere positivo, ci ha portato in finale all'europeo, insomma questo non cambia, però certo, per come si era messo il girone è veramente qualcosa di imperdonabile, detto sciocco non conquistare qualcosa che avevamo già in tasca, anche perché poi è vera la storia che dicevo prima degli italiani che si gasano quando le cose sono difficili, è proprio un tratto umano, no, del nostro paese a ogni livello, vale anche nella politica, nell'economia, nell'amore. Ma anche dell'amore, se piace sentiamo soffrire. La pressione, se ci piace soffrire. Ma a me, insomma, comunque no. Quando sentiamo la pressione addosso riusciamo a dare il meglio, però è vero pure che, insomma, se sei testa di serie hai un percorso di un certo tipo. Se sei in seconda fascia puoi essere fortunato perché magari trovi la Svizzera, tanto per dire, come testa di serie, poi hai anche meno vantaggi dal punto di vista logistico perché hai probabilmente più viaggi, più spostamenti, quindi insomma, non ci voleva, dai, su. Prima di abbiamo raggiunto da Milano, però prima volevo farvi sentire dichiarazione di oggi. Siamo nella vigilia di questa partita, finalmente hanno parlato Benitez e Garcia. Allora sentiamo prima sui dubbi di formazione che tuttora esistono. Alla fine vedrete che Higuain e Albiol giocheranno e mettono la mano sul fuoco. Garcia sulle scelte di domani parla così. Partiamo da Benitez. La impressione, se tu fai adesso una domanda a Raul o a Gonzalo, tutte e due ti dicono che sono al 100%. Noi dobbiamo decidere domani, come tu hai detto, abbiamo 24 ore per parlare un po' con il mio staff, con il cucino, con un po' con tutti. Il problema di queste due settimane senza tutta la rossa è per lavorare sulla partita. Oggi abbiamo lo abbiamo fatto e durante 14 giorni abbiamo lavorato con gli altri, però è un momento interessante per fare crescere alcuni o lavorare su un punto forte di uno, un punto debole di un altro, però meglio avere tutta la rosa. E ma c'è un piccolo problema con Kevin che è un dolore su talone, no? Si dice così? Talone, anche Gervinho, però abbiamo ancora domani il tempo di scegliere perché alcuni sono pronti per giocare. Canis, uno e fesso, palate di pretattica da tutte e due le parti. Sì, beh, ma insomma, Garcia o Garziano mi pare che ne abbia fatto, perché ha parlato di un piccolo problema al talone. Che è il tallone, dovrebbe essere il tallone, e quindi mi pare abbastanza evidente da quello che ha detto che Strootman e Gervinho faranno parte della gara. La situazione del Napoli è un pochino più complicata, anche se sono convinto anch'io che giocheranno sia Higuain che Albiol. Sono due bei tipi, questi due, sono veramente due bei tipi. Benitez lo conosco da tanti anni, è sempre stata una grandissima persona, al di là ovviamente dell'allenatore. È stato forse anche un po' sottovalutato a un certo punto perché ha questa faccia da bonaccione che magari in certi momenti, quando, cosa che invece non è. No, non lo è, ma sai, questo è un tipo di leadership, mi ricorda molto Ancelotti, non a caso sono amici, cioè non è necessario essere con la mascella in fuori ed essere dei provocatori per vincere, è una scuola, sono scuole di pensiero, sono tipi di leadership, ci sono delle leadership che portano alla divisione, pensa a quello che ha fatto Capello a Montella, per esempio, nell'anno dello scudetto della Roma, no? Lo bastonava, lo metteva in panchina e poi però lui riusciva sempre, quindi Capello da questo punto di vista è un genio nel lavorare su queste motivazioni, Mourinho è in questa categoria qui, altri sono allenatori invece. In questa categoria. Assolutamente, ma non è che c'è un giusto e uno sbagliato. Questo è un tipo di approccio. L'altro è l'approccio di Benitez, di Ancelotti, di Wenger, che sono tipi, diciamo, autorevoli senza essere autoritari. Sergio, ti piace Milano. Questa? Veda bene? Bravissimo. Bella, ecco. Sergio. Buongiorno, siamo in linea. Certo, in linea. Siamo qua. Siamo questi allora, qua. Per paragonare, secondo me, Ronaldo a Maradona è un po' come paragonare me a Alain Delon quando aveva 40 anni. E ovviamente tu sei meglio di Alain Delon, diciamolo, no? E per quanto riguarda Balotelli, io penso che se andiamo ai mondiali con uno così in nazionale, e per combinazione dobbiamo giocare contro Uruguay, Paraguay, Cile o Argentina, che quelli menano come dei non so che cosa, dopo un quarto d'ora siamo in 10. Sì. Ascolto la risposta per radio, grazie. La risposta è che se invece andiamo senza Balotelli, magari non siamo in 10, ma siamo sotto di 3. No, dobbiamo andare con Balotelli, non ci sono dubbi, perché in questo momento è il talento del calcio italiano, è il giocatore che può farci fare la differenza. Però ascoltatore ha ragione, nel senso che se c'è una cosa sulla quale deve migliorare, al di là del resto, al di là di Twitter, dei dibattiti sociologici e tutto il resto, ma dove deve migliorare in campo, della cosa che sta più a cuore a Prandelli, è proprio questa, cioè di non innervosirsi, anche perché poi Balotelli comunque paga, cioè le tre giornate di squalifica che sono venute fuori dopo Milan-Napoli alla fine si rifletteranno nel numero di gol che lui avrà fatto, nel contributo che ha dato alla squadra. È un po' il discorso che abbiamo fatto. È un po' il discorso che abbiamo fatto per Osvaldo, no? Altre volte, cioè Osvaldo comunque ha fatto due buone stagioni alla Roma, ma quante occasioni ha perso per il suo carattere, per l'espulsione per esempio in Coppa Italia con l'Atalanta che gli ha fatto saltare tutte le partite. No, ma questo io ti dico, Pier, questo è un difetto, difetto tecnico di un giocatore. è una questione di tecnica, e questo è un difetto tecnico di un giocatore, come quello che usa solo un piede, il sinistro, il destro, quello che volete. Marco però, D'Alessandria ci ricorda che c'è stato Platini, ma va bene, ovvio, okay, adesso qua partiamo con con l'enciclopedia, col Pantheon. Invece partiamo col traffico. Tutti convocati. Questo è un bel Roma-Napoli tra ascoltatori. Sì, però sta crescendo il partito di Letizia, perché io ho detto che eravamo in 8, siamo in 9, ci scrivono che insomma era sua mamma, forse sua zia, signora Letizia. Sì, Roma-Napoli pure Massimo contro Federico. Partiamo Massimo da Massimo. Eccolo. Massimo. Pronto, buongiorno. Dica. Posso dire che siete i due special one del calcio parlato? No, non dirlo. Fatevelo dire, per favore. Ma non dirlo, è gente, è solo gente. Ma siete il top che abbiamo in Italia, fatevelo dire, dai. Mi sa anche di presa... No. Abbiamo che cosa io? Cos'è che abbiamo noi? Allora, voi siete gli special one del calcio parlato. Va bene. Grazie. Allora, volevo raccontare solo un aneddoto. Sono un tifoso del Napoli, ho visto di Maradona, ho visto anche gli allenamenti, appostamenti sotto casa, tutto, quindi so tutto. La cosa più bella che faceva in allenamento era questa: metteva una bottiglia di Coca-Cola in mezzo, a metà, poi ci metteva sopra un pallone e segnava senza far cadere la bottiglia. Scusa, non abbiamo capito, però perché è saltata la linea. Dove metteva questa bottiglia di Coca-Cola? A metà tra il palo e il calcio d'angolo. Ah, ok. Sì, ho capito. Tirava di sinistro e la bottiglina non cadeva. Senti, ma a te manca il gemellaggio con la Roma? Non te ne frega niente? Oppure anzi dici che no, è solo... No, manca. Mi manca. Ah, ok, manca ti manca. Ma Federico manca? Che la rivalità, piuttosto che questa rivalità stupida... Preferirei un gemellaggio alla Genoa. Ah, Federico manca? Federico di Roma? Eccomi, io ti sento. Senti. Dimmi. Sì, ti sentiamo tutti. No. Ti manca il gemellaggio? Manca il gemellaggio con qualsiasi altra squadra, perché non esiste che non si vada allo stadio per divertirsi. Io sono sempre in trasferta. A Napoli, peraltro, ti tirano una volta in trasferta dei pezzi di butter. Sì. Beh, è una forma però, di così diciamo, di accoglienza, di amicizia, perché magari uno ha un problema, no? Deve andare in bar, è così. Che poi gli avrei voluto dire, ma io sono di Roma e io amo la vostra città. Eppure mi tirarono. Comunque, detto ciò, sperando che domani la Roma vinca, in qualità di tifoso romanista, volevo dire una su Maradona, che invece è la bandiera del Napoli. Recentemente chiedevo a un mio amico argentino se lui preferisse come suo eroe sportivo Maradona o Messi. E lui che domanda è? Gli dico, ma secondo te chi è stato più forte tra Maradona e Messi? E lui mi ha fatto notare una cosa: io ho 40 anni, lui ne ha 60, lui è ex calciatore anche argentino, mi ha detto, ma hai mai fatto caso che se Maradona avesse giocato con i due gialli, le squadre avversarie avrebbero finito probabilmente in 8? E allora sono andato a vedermi la mitica partita con l'Italia dell'82, che io mi ricordo da bambino, ed effettivamente se c'è su YouTube uno speciale di Maradona in quella partita, ed è, io non mi ricordavo bene, effettivamente è assurdo come Gentile non sia andato fuori, per la mia felicità, sì, per carità, perché certo, è super tifoso così, però dopo 20 minuti, perché lui lo bloccava proprio con le braccia, cioè lo braccava come Hulk Hogan, una cosa da metterti a ridere. È stato un bel duello maschio, fisico, ruvido, come piacciono a noi, dai. Sì, poi Diaghito era uno che si faceva, era uno che si difendeva bene. Poi aveva questa meravigliosa caratteristica per cui molto raramente lui si lamentava con arbitri avversari. E ne aveva un'altra, a questo punto poi veramente chiudiamo il buonismo, ne aveva un'altra che è eccezionale, su Maradona, che ti dicono tutti quelli che hanno giocato con lui, che lui il sindacalista della squadra, sì. Lui era quello che andava dalla società, parlava, chiedeva diritti uguali per tutti, anche per il ragazzino che magari andava in panchina due volte in tutto il campionato, il premio partito, cioè era veramente un leader dello spogliatoio, era vissuto dagli altri come un modello e come un esempio. Poi è ovvio, non è che ci siamo bevuti l'impossibile, è ovvio che ci sono dei comportamenti e delle zone d'ombra della vita di Maradona che, nelle quali non entriamo, perché ognuno non fa quello che gli pare, che sono fatti suoi, e questo è evidente, cioè non ci siamo dimenticati di questo, però dal punto di vista degli appassionati di calcio io credo che sia veramente un modello assoluto. È andato via l'ascoltatore di Roma? È andato via. C'è ancora? Ma quindi posso dire l'ultima cosa? Certo. No, me la devi dire tu, ti faccio una domanda, cioè dopo questa elegia a Maradona, quindi domani il Napoli vince in carrozza? No, io spero proprio di no, perché naturalmente essendo tifoso romanista spero di no, però Benitez mi sta pure simpatico, ma Garcia mi sta ancora più simpatico. Vabbè, però sul gemellaggio siamo... L'unica cosa che volevo dire è che io, come direbbe Mughini, aborro tutte le radio, soprattutto quelle romane, perché per me sono la rovina del calcio, della Roma, e voi siete l'unica radio che ascolto di sport, perché siete gli unici competenti e seri. Grandi. C'è pure la radio di Roma e anche quella di Napoli, però va bene, comunque sono un punto di vista. Vabbè, anche quella di Firenze faccio. Vabbè. Adesso non ti chiamano più. Non mi chiamano più. Chi c'è? Noi andiamo a Barletto o a Milano? Andiamo a sentire García e Benitez che si complimentano l'uno con l'altro. Sentiamo. Rafa Benitez è un grande allenatore, è un esempio, perché ha vinto tanto, tanti trofei, per me è un esempio, è un allenatore bravo, intelligente, è un piacere di poter parlare con lui, forse un po' prima della partita e forse di più dopo. Rudy García era un buon allenatore prima e adesso è ancora meglio perché ha più esperienza. La sua evoluzione come allenatore, ogni anno si vede che si impara qualcosa, tutti impariamo qualcosa, ma lo stile di gioco è simile. Lui giocava con la palla, le piaceva giocare con la palla e le piaceva fare una ripartenza veloce, non niente diverso. Mi sembra che è un po' l'adattazione alle giocatori che lui ha la Roma. Siamo nelle lisciate di pelo per partita. Sì, però Benitez è stato molto onesto, perché comunque qui non mi è sembrata una frase di circostanza, mi è sembrata un'analisi molto, molto chiara, molto precisa della realtà. Che facciamo? Perché tu hai lì il controllo, sai se c'è la borsa, il traffico, queste cose qua. Abbiamo... Perché ce l'abbiamo gli ascoltatori? Certo che abbiamo. Abbiamo il giornale radio, però fra... Vabbè, Francesco, Francesco, atto l'imperio. 5 secondi. Francesco, vai. Francesco. Salve gente, salve Pardo. Salve. Innanzitutto, oltre a farvi i complimenti per la trasmissione, io non sono mai intervenuto, però quando si parla di Diego Armando Maradona, a un certo punto bisogna per forza intervenire. Bisogna. Innanzitutto dico che sono un amante del calcio degli anni Ottanta, no? Quando la classifica canonieri se la combattevano Platini, Zico, Maradona, Rummenigge, questa gente qua, no? Però su Maradona lui è un capitolo a parte. Allora Francesco, Francesco me lo fa un favore, anzi due? Sì. Allora mi fa questi due favori? Rimanga in linea e mi lanci il GR. Come? Rimanga in linea e dica adesso c'è il GR. Adesso c'è il GR. Tutti convocati. Pardo, cioè altri due fan di Letizia, siamo a 11. Mac Letizia the Wizard, ci scrive Marco da Parma, e poi abbiamo il decimo fan di Letizia che però nel frattempo è diventato undicesimo, ecco. Il tassametro corre. Francesco dalla provincia di Foggia Barletta ha lanciato il GR e poi è andato via, si vede che si è spaventato. Ci è rimasto Giuseppe da Milano. Vabbè, ma siamo messi molto bene, anche perché noi lo stimiamo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno anche a voi. Niente, allora in merito proprio a Maradona, un'osservazione così che a me viene spontanea di porre così anche a voi come giudizio, è il fatto che non dimentichiamoci il tempo in cui Maradona ha giocato in un periodo in cui i falli erano all'ordine del giorno, cioè lui correva e da dietro lo falciavano a più non posso. Oggi non è più possibile, o meno, non è più tollerato come una volta, quindi giocare nel suo ruolo in maniera così determinante, nonostante ci fossero, io sono interista, quindi i ferri che facevano quelle sforbiciate che Carreca, sì, ricordo in una partita col Napoli, Giuseppe, nel periodo assolutamente, no, dico intervento assolutamente pertinente, ma è proprio la ragione per cui, una delle ragioni per cui i confronti epocali sono qualcosa che va bene. Per gioco. Esatto. No, ma o per il videogioco, quello... ma adesso il calcio si gioca ad una, ma dico non solo per una questione di falli, di tolleranza dei falli o di intolleranza nei confronti di certi falli per modifiche regolamentari, semplicemente perché è cresciuto in maniera spaventosa il livello fisico-atletico e di conseguenza anche il livello del contrasto tra i giocatori, dell'impatto tra i giocatori, dunque è evidente che si giocava un altro tipo di pallone. Questo nulla toglie, secondo me, né a Maradona né a Ronaldo né a quelli che hanno giocato quegli anni, perché erano dei geni. Allora, la trasmissione, ormai tutti convocati, è stata colonizzata dai... Todos convocados, y ahora vamos en directo, en vivo, con Madrid, con Filippo Maria Risi de la Gazzetta del Deporte. Gazzetta del Deporte, se siete tutti e due romani. Questa trasmissione è stata monopolizzata dai romani. La longa manus di Cruciani. Abbiamo anche un'altra cosa in comune, una passione per il clubbing, per il rave, soprattutto Ricci, voglio dire. Poi Ricci ha virato verso il Family Man, possiamo dirlo ufficialmente, ci saranno sentando soltanto 800.000 persone. Il calloni dei giornali. Ecco, Ricci è un uomo dal fascino straordinario con le donne, questo lo dico io, non c'è bisogno che tu possa confermare o smentire. Soprannominato il calloni proprio perché la sua straordinaria fedeltà fa sì che abbia sbagliato dei gol, cioè non sbagliato, volutamente non colto delle occasioni, e questo ti fa molto onore veramente. Senti, sotto porta è sempre un palo, una traversa o così. In compenso gli piacciono i gol difficili. No, non è vero, non è assolutamente vero. Anzi, Benedetta, perdonami, stavo scherzando. Certo, stavo giocando. Bene, tutto a posto. Sì, poi vai a casa e ti fa una faccia così, ma fa niente. Buonas tardes. Senti, ma cosa ti stavo dicendo? Adesso sai che ti tocca snocciolare tutti i pregi e difetti e miracoli delle squadre, di tutte le squadre africane che parteciperanno al mondiale, no? Ce n'è solo una sicura, che è il Ghana, mi sembra, che ha vinto 6-1 e che oggi ho visto intervista a Capello che ha messo, non so se in terza o quarta fila, un'africana. È vero. Allora io ho pensato, è vero, no? È vero. Ho detto sì, sarà il Ghana. Lo scrivete voi lo scrivete. Va bene. Il Ghana mi sembra la squadra più preparata. Poi, dopo tanto, lo diciamo da sempre: è il calcio africano, è il calcio del 2000. Siamo arrivati al 2013. Ancora, forse ancora è quello del 3000. Però io continuo a crederci. Insomma, così bisogna avere del romanticismo. E quindi, poi, soprattutto in questi giorni che è morto il povero Bruno Metsu, uno dei due allenatori che ha portato la squadra africana ai quarti di finale dei mondiali, onoriamo la sua memoria e speriamo che un'africana in Brasile, dove sono stati portati tanti africani, perché c'è anche questa storia, voglio dire, a Bahia, lo stadio di Bahia è pieno di nigeriani, sì. No? Questa, durante la Confederations Cup a Salvador è stata una grande, diciamo, riunione di questi poveretti che nei secoli scorsi sono stati trascinati così, da un continente all'altro, legati, ammanettati, e insomma speriamo che l'Africa possa far bene. Poi dopo chi, probabilmente il Ghana può essere una delle nazioni, se no la Nigeria, sarebbe divertente se andasse il Burkina Faso, che ha rubato clamorosamente la prima partita con un rigore inventato al 90° contro l'Algeria. Faccio il tifo per loro. Senti, ma invece Milan, Barça e Real Juve. No, voglio capire questo. Stiamo parlando di calcio vero. Abbiamo qualche possibilità? Allora, io do Milan-Barsa, secondo me gli va bene al Milan se non finisce molto male, cioè c'è molta molta differenza tra le due squadre. Beh, mentre, c'è dell'ottimismo, sì. Invece sì, su Real Juve, Come disse una volta un tuo collega radiofonico prima della partita di questa primavera, c'è aria di sveglia, parlando in romanesco, sì. Ovvero c'era aria di... In pratica siamo spacciati. No, invece aspetta. No, Real Juve invece la vedo in maniera completamente diversa. Ah, okay, Real Madrid, okay. Real Madrid è in un momento di molto complicato. Le cose non vanno bene e quindi la Juventus, che è squadra tosta, che è squadra con carattere, potrebbe teoricamente approfittarne. Cioè io do più chance alla Juve a Madrid che al Milan a San Siro. Sì, che al Milan in casa col Barcellona. Sì, anche perché se gli ultimi exit poll delle partite del Real Madrid sono stati terrificanti, no? Malissimo, esatto. Real Madrid gioca molto male, si è salvato per il rotto della cuffia, ha perso il derby contro una squadra, l'Atletico Madrid per me è abbastanza simile alla Juventus, non è, insomma, facendo le dovute, però è una squadra simile perché ha carattere, perché gioca un calcio diretto, ha degli ottimi giocatori, ha dei fuoriclasse, due grandi allenatori. Per cui io non, diciamo, la Juventus per me ha delle chance qui al Bernabeu, per un certo verso, cioè, cosa sarebbe nefasta per Ancelotti, cioè, se dovesse perdere. Questa è una settimana chiave per Ancelotti, è già stato fischiato a pochi mesi dal suo arrivo dal Bernabeu, quindi c'è un'aria strana, e c'ha mercoledì la Juve e sabato il classico al Camp Nou, per cui per Carletto questa è la settimana decisiva, vediamo come ne esce. Però la Juventus poi ricordiamoci che le ultime visite delle italiane al Bernabeu sono sempre andate piuttosto bene. Qua io ho visto vincere la Juve, la Roma, chi altro ha perso, la Lazio, però c'è un'altra squadra, forse il Milan ha vinto anche. Milan ha vinto, sì. Quindi insomma nello stadio più snob del mondo. Sì, non è esatto, qua al teatro. A me dicono di non fare lo snob perché non dissimulo le mie conoscenze su Letizia, che in realtà so benissimo chi è. No, no, avete parlato di Matt Letizia, non mi avete chiamato. Sì, ma guarda che qua c'è ormai è nato un fan club, Letizia, ecco, è arrivato. Vabbè, ma chiaro, cioè, probabilmente è il miglior giocatore di tutta la storia del calcio inglese. Ma qui siamo impazziti, ah, anche giocatore di tutta la storia del calcio, inglese. Attenzione, ovviamente inglese, quindi escludiamo George Best perché era nordirlandese, sì. Però io siamo lì, insomma, io appunto in Inghilterra sicuramente nei 10, sicuramente nei 5 e forse addirittura numero 1. Sono d'accordo. Cioè giocava nel Southampton, no? Sono d'accordo, poi c'era la pancia, ci sono delle cose. Era un po' la Riley Cont del campionato inglese, capito? Queste figure, queste figure talentuose, sregolate. Sì, noi siamo così, io e Ricci, capito? È per questo che Ricci poi delle volte sotto po'. Perché è già fatta, capito? È già fatta. È inutile fare il gol. Esatto, diventa un corollario. Quasi un po' chiuso. Io con i romani non lavoro più. No, ma poi Tosel, te lo dico, io con i romani non lavoro più. Tosel, mi stai ascoltando? Guarda, ti va bene, che sono cambiate le norme sulla discriminazione, perché forse con questo ti salvi, altrimenti dovremmo chiudere il settore. Ti chiudono la curva, il settore Genta. Tosel, se mi stai ascoltando, dichiaro con i romani. Senti, ma rischia, no, aspetta. Fabio Capello, fammi la griglia di partenza dei mondiali. No, non parlo con voi altri. No, invece volevo capire, a proposito dei grandi allenatori, ma quanto rischia? Perché insomma hai accennato il ragionamento, insomma, su che tempi siamo? Perché Florentino 5-6 partite mi dicono. 5-6 partite? Sì, vengo da una, diciamo, una presentazione, una riunione con alcune persone che seguono molto da vicino il Real Madrid e no, la situazione è complicata, perché voglio dire, perdere il classico vuol dire andare a 8 punti dal Barça, in una Liga dove il Barça, se vince anche il classico, potrebbe arrivare a vincere le prime 10 partite diciamo che finora ha vinto tutte le partite che ha giocato, come l'Atletico Madrid. Ovviamente perdere punti è molto pericoloso, per cui un'eventuale sconfitta nel classico scaverebbe un buco tra Real Madrid e Barcellona difficilmente colmabile. È lo stesso che è successo a Mourinho l'anno scorso. Mourinho è arrivato già a fine settembre, aveva 8 punti e non li ha più ripresi, per cui questo questa settimana, guarda, se ne riparliamo il lunedì successivo al classico ci potrebbe essere, sai, tante volte si dice che c'è un po' di condizionamento quando hai un grande impegno in Champions League e in campionato magari sei un po' condizionato perché in campionato c'è più margine per recuperare, quindi è meno importante, volendo anche il discorso che può riguardare la Juve a Firenze. Qui è il contrario, ecco, mi sembra, perché comunque lo ricordiamo, il 26 ottobre c'è Barcellona-Real, cioè il sabato dopo Real-Juve il Real gioca a Barcellona e paradossalmente se Real pareggia con la Juventus in casa non succede niente, le prime due partite, non succede, cioè la partita decisiva questa settimana per il Real Madrid è il classico, perché andare a 8 punti a fine ottobre è un casino, insomma. sarebbe un disastro che poi il Capello deve fare i conti con quegli snob che vanno allo stadio con la maglietta bianca. Ciao Phil, grazie. Ciao Ricci. Ciao. E Galloni, non mollare, siamo tutti con te. Ciao. Grazie Filippo Maria Ricci. Pierluigi Pardo, ti ringrazio. Sì, beh, se vuoi. Sì. Per la domani il settore Genta è eccezionalmente ancora aperto, nonostante la discriminazione territoriale. Vediamo, arriva un provvedimento. Giorgio De Luca da Napoli. Straordinario. In redazione. Il confuso De Luca oggi. E Roberto Scaltritti da Gallarate, invece, in regia. Siamo multietnici noi. Ciao. Ciao belli.